Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Qua, 4 febbraio, ieri hai scampato il mio onomastico. Ieri il mio onomastico però, l'ho ricordato. Ti volevo ringraziare, infatti, lo so. Quindi, l'unico santo che ho citato, perché non sono degno di citarli come li citi tu, ma... No, perché il problema è che tu sei cardinale vero, e quindi io sono un po' più irriverente. Non tocco i santi, esatto, non li nomino così. Allora, oggi è San Gilberto, anzi, ce ne sono due. Uno, il San Gilberto più famoso è quel fondatore dell'Ordine dei Gilberti, che era un cavaliere, figlio di cavalieri, di Guglielmo il Conquistatore, quindi un normanno di quelli che ha conquistato la Gran Bretagna. Poi c'è anche però un San Gilberto irlandese, anche lui meno noto, però oltre a tutti i Gilberti, tra tanti ci sono un Sant'Isidoro di Pelusio, San Papia, San Diodoro Claudiano, San Giuseppe da Leonessa, insomma ce n'è parecchie. C'è anche San Giovanna di Valois, che a me però è cara perché è regina di Francia, questa va ricordata. Ma detto questo, il santo vero è Padre Pio. Pare che il re si vada oggi da Padre Pio, sì. Che è molto devoto, e dice che è un santo che dimostrerà che è tutta colpa dei tedeschi, quindi glielo farà dire in forma di miracolo per l'Unione Europea, sì. No, però questa cosa a parte, però Padre Pio è interessante, mobilitazione popolare, è una cosa quasi sembra d'altri tempi, se ci pensi, no? Ma guarda che Padre Pio da sempre giro per dire, le chiese di Roma che c'è oggi, no? In ostensione. Ma Padre Pio ha un seguito veramente molto molto diffuso, ma da sempre, magari ma forse, non ostentato, forse ma... non tanto diffuso come quello del direttore di Radio Maria, Don Livio Fanzani. Forse non così Don tanto Livio diffuso. Adesso lo ascolteremo, eh? Ti piace Padre Livio che ha alzato un po' insomma i toni. Tra poco lo ascolteremo. Prima voglio dire questa cosa. Ha alzato i toni o ha alzato il gomito? No, perché a volte sembra non mi permetterei mai di pensarlo. Non so, a volte mi fa venire in mente che la via più diretta per la fede è quella sopra i 40 gradi al prima COVID. Però bisogna fare un appello. Donne, state attente, state attente. No, perché... adesso non segue la famosa battuta, è arrivato l'arrotino. No, donne, state attente, perché intanto, e ne parleremo più avanti, succede a Latina, che è una donna che non stira, non lava, non cucina, è stata portata in tribunale dal marito che si è sentito maltrattato. Siamo nel 2016, non nel 2016. Lui la poi in tribunale. È rinviata a giudizio, certo. Sul serio, cioè dopo un'udienza preliminare l'hanno messa alla sbarra e rischia una condanna da 2 a 6 anni. Siamo nel 2016, tranquilli, non nel 1016. Quindi, ma care succede, signore, vedete di cucinare dei manicaretti ai vostri maritini, perché se no ci sono dei giudici che vi rinviano a giudizio. E anche pulire bene il pavimento, perché... E anche i vostri doveri di compiacenza nei confronti di alcune richieste, per così dire, alle quali non assecondate. Quindi questo, l'indomani della sentenza che invece a Palermo ha prosciolto, sì, il dirigente dell'Agenzia delle Entrate, perché palpare le tette, il culo e, testuale, la zona vaginale delle dipendenti, e beh, no, non c'è concupiscenza, mica il reato. È uno scherzo. E mica il reato. E mica la giudice poi si può stupire se le dipendenti dell'Agenzia delle Entrate hanno detto del capo, ma guarda un po', ma no, è un immaturo. Cosa potevano dire? Questo porco, sapendo che poi il giudice lo assolveva e loro si trovavano il capo sulla testa tutti i giorni. Tra l'altro, no, come tu hai fatto notare, il giudice che ha scritto la sentenza materialmente è una donna, ma il presidente della corte che ha stabilito è un uomo, si chiama Bruno Fasciana. Ieri Simone Spezia l'ha raggiunto e senti cosa dice, questo è il giudice che di ma fatto l'ha raggiunto dal Medioevo dove vive? No, con gli araldi, no, ha esatto chiamato al telefono, l'ha raggiunto, e sentite Bruno Fasciana, il giudice che ha assolto questo qua che toccacciava le colleghe. Non può considerarsi un buffetto sul sedere, così hanno dichiarato le persone offese, oppure il toccare il bottoncino della scollatura di una donna come fatto avente una connotazione sessuale, e che loro stesse hanno qualificato i fatti come scherzo di una persona immatura. Dai. Il bottoncino, una persona immatura, il buffetto, che è il loro dirigente. Allora, caro signor giudice, mandaci tua figlia, vediamo se reagisci così. Vediamo se io le tocco le tette, il culo, le metto tra le cosce e poi tu mi dici: oh, questo come si fa a toccare il bottoncino? Era un buffetto, ma era dai, un buffetto. Questo è il segno che siamo ancora prigionieri di una mentalità medievalmente massista. Massista, nel senso che io dico sessista, maschilista, massista. Questo giudice dovrebbe, perché io non è che voglio insultarlo, e rispecchia un pregiudizio diffusissimo ancora nella società che italiana. Che si può fare il buffettino, che era una roba così, capisci, scherzosa. La dipendente per prima che sa che quello non sarà sottoposto né al licenziamento disciplinare, era il suo direttore. Deve sperare che ci sia un giudice, non medievalmente la caricatura del siciliano di Brancati che sembra questo signore qua. Comunque, se volete 800 24 00 24, se volete chiamarci su questo, perché insomma sia la vicenda di Latina a processo, donna che non cucina manicaretti e non stira e lava, oppure questa vicenda di Palermo, oppure se volete ancora Fittopoli o Padre Livio, visto che hai detto Padre Livio Fanzaga, che ha fatto? Ha ricordato una cosa alla Cirinnà, la senatrice Cirinnà, ha ricordato una cosa, questa così banale, che tutti prima o poi, signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla, glielo auguro più lontano possibile, ma arriverà anche quello. Vedi, più lontano possibile. Singolare caso veramente. Tra l'altro la Cirinnà ha risposto: mo me lo segno, ti ricordi? Ricordati, sì, che devi morire, me lo segno. Non capisco cosa c'è. No, poi tra l'altro, non lo so, veramente, mi sembra, uno può dire, ah, ma è una battuta, ma che battuta è? Ricordare la morte, comunque, siccome nessuno di noi, se intelligente, se la può dimenticare, è comunque una maniera per alludere al fatto, cara mia, verrà il momento anche per te, cioè il sottinteso è pensi che non ci sia un giudice esatto, verrà il giudizio divino, questo è il concetto, perché per padre Livio la morte vuol dire verrà il giudizio divino, anche poi per lui, dopo però, la morte verrà. Anche per lui. Padre Livio pensa di essere, immagino come tutti noi, un peccatore, ma meno peccatore almeno sotto questi punti di vista, cioè. E chi lo sa, nei giorni del giubileo della misericordia, ti sembra un'ispirata misericordia questa parola? No, non è un'ispirata misericordia, ma d'altronde ci sono cose, per esempio, hai sentito cosa ha detto Beatrice Lorenzin? Te lo voglio far sentire. Che ha parlato, però, di non è suora né badessa. No, è ministro della salute. Ha parlato della maternità surrogata e ha detto che è ultra prostituzione. Mamma. La tratta criminale che viene organizzata in alcune parti del mondo di bambini e di uteri in affitto. Perché ultra prostituzione? Perché qui si tratta non semplicemente della vendita del proprio corpo per mangiare, come avviene in questi paesi, ma addirittura della vendita dei propri figli. Cioè, credo, non si capisce, non è solo la vendita del corpo come la prostituzione, ma del corpo per fare un figlio, quindi ultra prostituzione. Però, allora, mentre la condanna e la lotta contro il racket internazionale di paesi poveri in cui avvengono queste cose, io la capisco ed è giustissima, e credere che la maternità surrogata si riduca a questo, sia pura espressione di un racket internazionale, che come sempre è una strumentalizzazione impropria. Certo, è come dire non vogliamo la prostituzione perché le donne sono sfruttate. In quanto tale non mi piace troppo da un ministro, ma perché il ministro sono d'accordo. Sa, no, che non è solo questo. Questa va combattuta durissimamente. Però, per fare l'esempio, il senatore del PD, di cui oggi sul Corriere della Sera c'è l'intervista, Sergio Lo Giudice, che con suo marito gay... Ieri l'abbiamo chiamato. Esatto, no, ha realizzato questa maternità surrogata. Non è che ha usato un racket di nigeriani. No, questo sicuramente no. Però, Oscar, io rimango del parere, e già lo sai, l'ho già detto, sono contento di vivere in un paese in cui la maternità surrogata è vietata. Ma questa è la mia posizione. Lo capisco benissimo. Anche il senatore Lo Giudice, in questa intervista alle Iene, di fronte, ma voi avete pagato questa donna in California? Preferiamo non rispondere. Cioè, comunque, a me, ma è una posizione personale, tra persone libere, contratto libero, ma l'idea di pagare un ordine di grandezza di quello che comunque gli è costato tutta la cosa, l'hanno dato l'idea di pagare poi una persona che liberamente, per carità, non perché è sfruttata, una donna che liberamente per un regolare contratto fa un figlio, capisco cosa a me non piace, ecco, no, ma è una cosa che non piace, anche se io trovo ridicolo che ieri noi abbiamo avuto il parere su dei pediatri pediatri. I pediatri sì. Si occupano di malattie. Ma allora io voglio il parere, non lo so, di pneumopatologi. No, i pediatri si occupano oculisti. Anche del benessere psicofisico del bambino. Ma no, scassi, ho capito, però i pediatri, guarda, no, voglio ma no, voglio l'ortopedici. Sì, perché cadono di più i bambini, i figli. Ma dai, su, un paese però ridicolo. Si elevi un grido anche oggi. Tronca, tronca, un mito, tronca, una legge. Il fatto che, come si vede, la politica non ha bisogno del suffragio universale. I commissari sì che intervengono. No, no, perché questa vicenda di Affitopoli anche oggi la vogliamo continuare. E salutando anche un ospite, Tronca vuole vedere chiaro. Oh, ha detto che ci costa a Roma 100 milioni di euro 100 l'anno. 100 testoni di euro l'anno. Il fatto di pagare 4 euro per il fatto che il Comune di Roma non è capace di essere un buon proprietario che mette a reddito. Detto le sue case. Ovviamente tutti sono scatenati a cercare dei casi emblematici, come il caso raccontato dai giornali del Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta, di cui salutiamo il direttore Mauro Casinghini. Direttore, buongiorno e buongiorno, grazie per essere buongiorno. Qui. Ci dica subito dove siete ubicati e quanto pagate d'affitto, così intanto mettiamo sul piatto i termini della questione. Allora, l'Ordine di Malta dal 1946, cioè dopo la guerra, è concessionario di questo bellissimo bene culturale che è sui fori imperiali. In particolare c'è questa terrazza che si arraccia sull'ex foro di Augusto. Sì, molto bella. Che guarda verso il lato sinistro dove c'era l'egida di Marte Ultore, cioè stiamo parlando di uno dei luoghi più straordinari certo. di Roma. Certo, un luogo museale, un luogo aperto al pubblico. È un luogo dove appunto abbiamo ha sede l'Ordine di Malta in Italia, in tutte le sue sfaccettature sociali e di protezione civile, come appunto il Corpo di Soccorso, appunto dal 1946, essendo proprietario dal 1460, sì. diciamo, di quel palazzo. Quanto pagate? Dunque, il canone concessorio del 1946 è attualizzato in euro di 12 euro. Al mese? Sì, cioè, praticamente è dal 1460 che ha pagato la stessa cifra, praticamente. sì, magari, perché noi l'abbiamo costruito quel palazzo, cioè i cavalieri di Rodi, perché nel 1460 non erano i cavalieri di Malta, erano i cavalieri che ancora stavano a Rodi, infatti si chiama Casa dei Cavalieri di Rodi, lo costruì, fu il cardinale Marco Barbo che lo costruì, come appunto priore dell'Ordine di Malta. Sì. No, ma noi la ringraziamo perché da ieri lei ma gli andò bene il priore, perché oggi se l'avesse fatto, siccome sono materiale di risulta del foro di Augusto, andrebbe dritto in carcere, perché se è chiaro all'epoca. No, la ringraziamo perché lei da ieri comunque non si sottrae alle interviste di si paghiamo 12 euro. Ma come la vogliamo mettere adesso? Esatto, cosa dobbiamo dire? Cioè, si metta nei panni di un cittadino che sente questo. Secondo me, questo è un esempio virtuoso, perché in realtà il Comune di Roma restituì in questo caso all'Ordine di Malta questo palazzo nel 1946 per effetto di due cose. Il primo, appunto, come ho detto, che dal 1460 ne era proprietario, e il secondo perché volle ringraziare l'Ordine di Malta di tutti le attività che furono fatte durante le due guerre, perché l'Ordine di Malta a Roma mise in piedi una serie di strutture infermieristiche e mediche di primo soccorso in giro per Roma, in tutta Roma, per soccorrere i cittadini. E va bene, ma perché è un esempio virtuoso 12 euro, mi perdoni? Ma perché noi sostanzialmente in quel palazzo è vero che paghiamo 12 euro, però ne spendiamo almeno 30.000 ogni anno per la ordinaria e straordinaria manutenzione che ci accogliamo, il che significa per un bene culturale di quel tipo, che è tenuto veramente come un gioiello e, ripeto, aperto al pubblico due volte a settimana, il Comune di Roma stesso attraverso Zetema organizza delle visite guidate, è fruibile al pubblico. Quindi voi dice lo riqualificate, noi ogni anno lo riqualifichiamo, lo teniamo in maniera straordinaria, lo teniamo come bene aperto al pubblico, e quindi per questo è legittimo. Però che ne pensa di tutta questa vicenda definita Affittopoli? Cioè, Tronca fa bene a vederci chiaro se qualcuno benissimo. I beni pubblici devono essere tutelati come cosa pubblica, ovviamente. Parliamo più che altro di appartamenti in affitto, sappiamo, no? Negozi a livello stradale, insomma, è un patrimonio pubblico che va assolutamente tutelato. bisogna necessariamente fare il distinguo, perché insomma un conto è un appartamento con vista Colosseo, no? Dove ovviamente c'è un privato che ne usufruisce, poi anche lì bisogna fare il distinguo se il privato è in condizioni di sopportare un affitto normale o come la pensionata di cui abbiamo letto, no? Che prende 400 euro di pensione al mese, sicuramente va tutelata, oppure una persona che invece è un benestante e usufruisce di un bene pubblico, diciamo, illegittimamente. Cosa diversa per un bene artistico. No, ma cosa diversa? Sì, ma qua tra l'altro, Oscar, adesso c'è la caccia a trovare queste persone, come ieri questa, ma povera signora, lo dico anch'io, certo, quando viene pizzicata non può difendersi dicendo, beh, però qui il pane in zona costa, perché pagando 8 euro, no, ma noi non ce l'abbiamo contro... No, non però ce l'abbiamo resta sbagliato l'idea che un comune, cioè un proprietario pubblico che ha enormi problemi di debiti e deficit, non applichi ai suoi beni immobili un criterio di valorizzazione del reddito. Quindi nessuno se la prende con la pensionata che ha 400 euro al mese. Ma con chi in comune ha chiuso gli occhi. Ma se ha un appartamento, per quanto piccolo, in centro, è proprio da quelli in centro che il comune deve tirare fuori, è obbligato per una buona gestione a tirare fuori i canoni di mercato più alti. La signora... quindi io sono, perché gli resti il diritto pubblico all'edilizia agevolata, all'affitto agevolato, non lì. Tutto qui, questo è, non si tratta di essere dei terroristi efficientisti, si tratta di essere contrari al fatto che noi teniamo gli occhi chiusi sul fatto che tutti gli immobili pubblici, invece che produrre reddito, producono perdite. Ma lo stesso direttore Casinghini vale, se vuole, per lei. Cioè, è vero che voi fate quest'opera meritoria e riqualificate per 30.000 euro di spese ogni anno, eccetera, però 12 euro, voglio dire, un comune non avrebbe il dovere di guadagnarci di più, lo so che è brutto dire, ma proprio monetizzare. È vero, questo è verissimo, ma infatti noi non ci siamo mai sottratti a una previsione di aumento. Il problema è che ovviamente i beni pubblici, in particolare quelli storico-artistici, hanno dei costi che ovviamente la pubblica amministrazione non sempre può sopportare, lo sappiamo. No, va bene, ma questo è ragionevole. Però quindi, quello che possiamo dire è che Cavalieri dell'Ordine di Malta, fedeli a una tradizione di assoluto galantomismo e di sacrificio per i loro altissimi, vero, ideali, sono pronti a ricontrattare e a pagare un canone più elevato. Cioè, quanto potrebbe essere, Casinghini, per concludere? Guardi, cosa potreste accettare come una cosa, un compromesso? 10.000 euro al mese. Questo ovviamente lo lascio alla valutazione del comune, perché è bene che lo facciano loro. Però le posso dire una cosa. Il palazzo è molto grande, molto bello, ha delle ampie superfici, ma in realtà per esempio per la nostra sala operativa, che è la sala operativa che coordina le attività, io questo ci tengo a sottolinearlo, l'Ordine di Malta fa, diciamo così, il paio con quello che diceva Giannino in questo momento. L'Ordine di Malta da nove secoli, no? Fa attività nel mondo. In questo momento noi stiamo facendo nessuno la mette in discussione. No, volevo dire un'altra cosa. Noi facciamo il soccorso nel Mediterraneo per i migranti e adesso anche nell'Egeo. Non abbiamo mai avuto tanta attenzione come per momento. I 12 euro. No, per 12 euro, spendendone veramente tantissimi per fare questa attività, sono la gente. Paradossi dell'informazione. Però lei Roma. Deve capire, lo stesso paradosso è che se non fosse per Tronca, tutte le amministrazioni comunali precedenti il disastro l'hanno creato loro, eppure non se ne occupava. Sì, quindi male che ce ne occupiamo, male che Tronca. La differenza. Comunque. La differenza è che mentre nel palazzo del comune, che è locato, che è affittato a privati, no? Il comune probabilmente se ne assume anche la straordinaria manutenzione, noi per fare un intervento straordinario tiriamo fuori i nostri soldi. Questa è la differenza e questo è il distinguo che va fatto. Ma questo è un distinguo che lei ha fatto benissimo. No, si fermi qui però, direttore, perché altrimenti sforiamo un attimo. E la ringraziamo intanto, Mauro Casinghini. Noi su questa vicenda, voglio ricordare, lei è direttore del Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta, su questa vicenda continuiamo a tenere aperti gli occhi per quel che mi riguarda, a urlare ad alta voce. Tronca! Che insomma, vuole vedere quanti 35 affitti al giorno, cioè un ritmo di 35 affitti al giorno, vuole controllare tutto, ha messo in piedi una task force. Sembra un ritmo ragionevole, giusto. In pochi mesi consente di fare così. E soprattutto ogni candidato sindaco faccia capire cosa è capace di fare di più, lo dica apertamente, questo è un punto chiaro della gente. In campagna elettorale diranno con me non ci sarà più. Non l'avrebbero detto senza Tronca, affittopoli. Non l'avrebbero detto, quindi viva Tronca. Senti, ci chiamano per la vicenda delle sentenze che tra poco approfondiremo. Angelo da Napoli, buongiorno Angelo. Sì, salve, buongiorno. Io volevo semplicemente segnalare che la notizia notizia l'avete riportata un poco semplificata. Quale notizia? La notizia di questa persona che ha portato la moglie in tribunale perché alla non cucinava. Alla fine, sì. In effetti lui è stato maltrattato, aveva subito anche altri maltrattamenti, tipo essere lasciato fuori dalla stanza a letto a dormire, eccetera, eccetera. Sì. Quindi, ma anche alcuni quotidiani hanno riportato anche altre cose, quindi è incidentale, secondo me fa parte del calderone, poi mettere in mezzo che la moglie non cucina. Allora io perdoni, siccome ieri ho letto tutte le carte che trovo su questo, naturalmente lasciare fuori casa, fuori dalla camera, mi aspettavo questa obiezione, che personalmente io lo dico con rispetto, considero a propria volta espressione del pregiudizio maschilista. Perché, come lei ha correttamente riportato e come risulta da quello che sappiamo, nella deposito delle motivazioni dell'esposto, da cui poi arriva il rinvio a giudizio, si lamenta il coniuge maschile di essere tenuto fuori dalla porta della camera da letto. Allora, io le chiedo con tutta la sincerità del caso, bisogna fare delle, insomma, andare in tribunale, motivi di, che ci sono nelle coppie per cui a volte si dorme su divani diversi, motivi per cui si chiede una condanna fino a 6 anni? Oppure questo esprime il fatto che io sono il maschio e Massimo io ti metto fuori dalla camera da letto, ma tu no, perché sennò c'è il codice penale. Riflettiamoci durante la pubblicità, perché tra un attimo ripartiamo proprio da qui. Tanti chiamano su questo tema e ripartiamo proprio su questo. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Allora, caro Oscar, avrà meditato i nostri ascoltatori sulla vicenda, che peraltro non è di Latina, è di Sonnino, provincia di Latina, paese natale di Spillo Altobelli, ve lo ricordate? Con delle perle. Spillo Altobelli, quest'Inter è un carro armato a vele spiegate, disse una volta. È bella anche quella dei genitori. Sì, per la mia carriera ringrazio i miei genitori, specialmente mio padre e mia madre. Spillo, un grandissimo. Quindi dici tu che forse, insomma, c'è una cosa ereditaria da quelle parti. No. Ma forse è banalmente quella del marito che porta in tribunale la moglie perché si sente maltrattato, perché la moglie non cucina, non lava, e non stira. E di un giudice che la rinvia a giudizio. Forse in realtà era una banale vicenda di matrimonio che doveva finire, litigi di questo tipo. Senso, una... I tribunali già sono intasati, ma se confrontiamo ai rinvii a giudizio per cose di questo genere è finita l'Italia. Vogliamo chiederlo all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, ben ritrovata, come sta? Grazie, bene. Ne ha sentite tante lei, ma questa forse... Ne ho sentite tante, però posso arrabbiarmi un pochino per questo tono da maschilisti che avete fatto? Noi siamo maschilisti. Va bene. Allora, io che non sono maschilista e non sono neanche femminista, non mi sconvolgo se c'è un rinvio a giudizio di questo genere. Poi naturalmente ci sarà il processo, l'istruttoria, bisognerà vedere i fatti come sono accaduti veramente, come si sono espressi. Però voi pensate che quando ci si sposa c'è un articolo 143 che decreta quelli che sono i diritti e doveri di una coppia. La base della coppia coniugale è la solidarietà morale e materiale. Normalmente questa solidarietà si esprime anche nell'accudimento reciproco, che in genere da parte del marito può essere quello di procurare il reddito, da parte della moglie di fare la casalinga. Sì. Valore peraltro quello, il lavoro della casalinga, che è uguale identico a quello produttivo di reddito. Allora, se c'è un marito che esce e guadagna, una moglie che sta a casa e non fa niente di quello che deve fare nella modulazione delle rispettive funzioni, che in più lo insulta, lo chiude fuori dalla porta, magari gli nega il sesso, cioè una serie costante e continua di aggressioni all'identità e alla persona del coniuge, aggressioni non fisiche, ma morali, che provocano nel coniuge uno stato d'animo di malessere, dispiacere, rabbia. Questo è maltrattamento. Non è che il maltrattamento... Quindi non ci vede nulla di così male. Non ci vedo nulla di così male, prima di tutto perché so che davanti alla legge c'è pari dignità giuridica tra uomo, sì, e donna. So che il cucinare è importante come il produrre reddito lavorando fuori, lo stesso attendere alla normale cura della casa. Ma, no, ma io il mio dubbio però è questo, avvocato, succede che si viola, mettiamo così, come ha detto lei, il patto che è sancito con il matrimonio, e io vado, voglio dire, mi separo, ecco. Certo, non è che allora la prendo e la denuncio perché A tutti i giorni, ma sa quante denunce si dovrebbero fare sulla base della però nostra legge sui reati che non si fate, perché nessuno ha fiducia nella giustizia. Mia miglior candidata a tutte le cariche che mi vengono in mente nel mondo. Tra cui io sindaco sono di Milano, perché sindaco di Milano, presidente dell'universo. Io farei l'avvocato Brandini De Paci, gli darei pieni poteri. Questo è da sempre. No, ma questo è da sempre. Ma sono un fan, non sono obiettivo quando si tratta dell'avvocato Brandini De Paci. Però a condizione che questo non sia suo cliente, in quel caso capisco. No, sto scherzando. Però mi ha colpito perché mi sono sentito trafitto da parte a parte, cioè, il ragionamento maschilista. Io ribadisco la mia opinione. Il marito che chiede sono maltrattamenti, ok, però voglio dire, qui il rinvio a giudizio, l'esposizione a una pena da 2 a 6 anni. Con tutto rispetto, io penso che sia maschilista ritenere di risolvere le questioni interne a ciò che non funziona nella famiglia mettendola sul penale, non cucini e mi neghi il letto. Io sono convinto. Concordo, ecco, questo è il punto. Concordo, però cioè, quando c'è un atteggiamento da parte di uno dei due coniugi, continuo, molesto, persecutorio anche nel non fare, aggressivo nel senso che dicevo prima, nell'altra parte si crea uno stato d'animo di dolore, di malessere psicofisico terribile, eccetera, che è la base del maltrattamento, è alla base del maltrattamento. Perfetto. Pensate al maltrattamento sui bambini, come può avvenire? Ah no, questo per carità di Dio. Cosa avviene? Che non gli si dà da mangiare, che li si trascura? No, quello diventa lava, un argomento sacro per il quale oggi non credo che sia il momento di chiudere le sezioni specializzate minorili. Ma detto allora, questo, in quel caso il giudice che decreta il rinvio a giudizio si deve limitare alla freddezza del diritto e dire no, c'è la fattispecie nel codice, oppure non dovrebbe dire alle parti, sentite, dovete andare di fronte a un giudice ma per separarvi, perché ragazzi è inutile che credere di risolverla in punta di quanto condanno la moglie che non cucina. O no? Sbaglio io? Ma sa che adesso è stata introdotta l'udienza preliminare. Questa udienza preliminare, per archiviare una pratica, per non rinviare a giudizio, bisogna scrivere, bisogna fare una sentenza. I giudici dell'udienza preliminare, i GUP, fanno prima rinviare a giudizio, così se ne occupa un altro giudice. Lo so, ma questa è la struttura della giustizia. Però io voglio sapere dalla mia candidata ideale a governare l'universo cosa pensa della giudice che di fronte al direttore dell'Agenzia Centrale di Palermo dice ma è un immaturo, può essere per concupiscenza che lui mette le mani sulle tette, sul culo e nella zona vaginale. Ma tra l'altro, avvocato, glielo possiamo fare, lei l'ha sentito prima, perché il giudice Io sono indignata. Il buffetto sul sedere. Indignata soprattutto perché è stata scritta da una donna che dovrebbe capire, soprattutto in questo periodo storico in cui quotidianamente abbiamo questi delitti terribili su donne incinte, proprio per questo atteggiamento di sopraffazione del maschio, non si capisce come un gesto di sopraffazione, perché anche toccare una donna con quel tono e con quel modo è sopraffazione, non venga inteso a contenuto sessuale, perché se gliel'avesse fatto in testa poteva anche starci, non avrei condiviso il ragionamento, però poteva anche starci, ma una volta le ha toccato il pube, un'altra volta le ha toccato il sedere, se non sono zone a richiamo sessuale il ragionamento di quanti secondi deve durare la toccata per esprimere concupiscenza, è una roba da medioevo. Poi la questione che ieri qualcuno ha detto, anche il giudice ha detto, ma le stesse persone, le stesse impiegate lese hanno detto che era stato un gesto, ben sapendo che non è partita l'azione disciplinare, e immaginando, come diceva la giudice giudice di Palermo, per evitare adesso di essere sottoposte a cose, a impalamento per scherzo da parte della dirigente, guarda caso dicono così. E io capisco loro e do loro solidarietà, se vuoi sapere, sì. Alino, perché queste sono le cose medievali dell'Italia, medievali. Sono medievali, però sono una sorta di snobismo al contrario, cioè vogliono far vedere che non tutto è sessualmente riconducibile, ma se si arriva davanti a un giudice con questa denuncia, vuol dire, è come nel maltrattamento, che chi l'ha subito ha subito un'umiliazione dal punto di vista sessuale, esattamente come il marito che vede la moglie che lo trascura totalmente non rispettando la sua. Non c'è dubbio, tra l'altro noi dobbiamo ricordare che alle 12 se non poi anche... questo è stato certificato immaturo e maneggia le tasse di tutti, cacciatelo, no, perché io non voglio che un immaturo mi metta le mani per motivi disciplinari un dirigente pubblico, levategliela, voglio una sanzione esposta, perché un dirigente pubblico immaturo che tocca le tette, se il giudice penale dice che non è reato, io penso che dal punto di vista disciplinare deve comunque allora, pagare. Ricordiamo che alle 12 tra l'altro Gianluca Nicoletti ne parlerà anche del suo Melog. Vogliamo sentire Andrea che ci chiama da Milano, su che cosa Andrea? Su tutte le sentenze, su una, qual è la incuriosita? Sì, buongiorno a tutti, esattamente sulla sentenza di Palermo di cui stavate parlando, in parte avete anche anticipato il mio tema. Il tema era proprio incredibile il fatto che le stesse persone che tutto sommato avranno denunciato questo dirigente pubblico a un certo momento, visto che si è giunti a un processo, in un secondo momento ritrattino dicendo, facendolo giudicare appunto in maturità. Non è che hanno ritrattato, probabilmente sa il fatto di comunque si andare pressioni ambientali. Andare davanti a un giudice a dire che il proprio direttore ha fatto queste cose. Quando non è, capiscono non è che tanto non va da nessuna parte, siccome devi continuare a starci in quel posto, ne prendi atto. Mestamente, purtroppo. Questo è esattamente però parte dello schema medievale eccetera, ed è solo un aggravante di quello che stiamo dicendo. L'intervenzione era proprio questa. Non so, avvocato Bernardino De Pace, ovviamente è un'interpretazione, noi pensiamo e si pensa che queste persone siano state, come dire, condizionate evidentemente a sminuire la portata dell'aggressione. Sono convinta che ci sia un fatto ambientale, che ci siano stati condizionamenti anche subliminali, però mi ha colpito quello che ha detto l'avvocato Bernardino De Pace. Ho dato un'interpretazione a quale non avevo pensato, cioè la giudice deve aver pensato, ma mica noi siamo americani che ogni cosa diventa sexual harassment, siamo superiori perché abbiamo una civiltà giuridica superiore, quindi dobbiamo essere in grado con superciliosa superiorità di dire non tutto si riduce al sesso. Questo lei ha avvocato snobismo, una sorta di snobismo. Sì, una sorta di snobismo al contrario. Io amo molto parlare con voi perché avete un'intelligenza fulminante. Immediatamente fate passare poi una serie di valori e di concetti, di argomenti in modo tale che alla fine arriviamo al punto. Beh, bene, insomma, siamo partiti maschilisti e siamo finiti bene. Meno male, siamo salvati. Ho detto questo momento di maschilismo, di uomini, uomini. Vabbè, Non riescono a nascondere questa parte profonda. Capito Oscar, Ancestrale. Anche noi siamo medievali. L'unica pochino, donna dalla quale potrei accettare di dirmi, come ci dice lei in maniera così seducente, siete dei vermi. Siete così. La verità è che in questo periodo storico in cui il governo ci sta sbattendo davanti in modo sbagliatissimo il problema delle unioni civili, non ci si occupa del gravissimo problema della famiglia vera, autentica, reale, che è fatta dove ci sono moltissime unioni incivili. Esatto. E ricordiamoci che è l'ambito nel quale ci sono più delitti di sangue e di violenza in Italia. Avvocato, noi la ringraziamo moltissimo. Grazie, avvocato Bernardino De Pace. Chiudiamo con Monica da Roma, che è lì da un po' di tempo. Sì. Monica, buongiorno. Credo. Sì, buongiorno eccoci. A voi. Volevo un attimo soltanto soffermarmi sul discorso che faceva prima il rappresentante dell'ordine di Malta. Sì. Okay. Allora, io parlo della mia esperienza, ho mia mamma che è pensionata, prende 962 euro di pensione, li ha presi l'altro ieri, e per un appartamento in zona via Tuscolana, non so se siete bravi di Roma, che è sicuramente una zona commerciale ma non è fuori Imperiali, quanto paga? Borgo Rio. 650 euro 650 al mese, euro 24 metri di appartamento più ovviamente riscaldamento condominio. Poi, insomma, lei dice forse è il caso che il sovrano militare ordine di Malta paghi un po' di più. No, come, come l'ascoltatrice l'affittuaria di ieri che dice ma è un bugigattolo, avete sentito, 24 metri 650 euro. Padre Pio ha fatto il miracolo, Cuffaro sta offrendo i suoi voti al PD, hai visto il miracolo Renzi, Renzi hai ottenuto Cuffaro. Il miracolo. Che c'entra Cuffaro? Un'altra puntata questa domani. Ciao, ciao.